GR Europa. Buon pomeriggio ancora da Anna Migliorati, seconda finestra di oggi sull'Europa. L'appuntamento al Parlamento europeo è per la prossima settimana, il 9 aprile. In quella sede verrà ufficializzata davanti ai rappresentanti dell'emiciclo dell'Unione la richiesta di aiuti concreti per ricostruire la città della scienza di Bagnoli, andata in fumo il 4 marzo scorso. Oggi intanto però a Napoli è arrivato in visita il commissario europeo per le politiche regionali Hahn. Johan Hahn è arrivato alle 11 in punto a Città della Scienza a Napoli. Non è una visita formale quella del commissario per le politiche regionali dell'Unione Europea, che si è confrontato sui fondi da stanziare con il governatore Caldoro, con il sindaco De Magistris e con il fondatore di Città della Scienza Silvestrini. Occorrono tra i 40 e i 50 milioni di euro che sarebbero già pronti per la ricostruzione della struttura che ci sarà sempre a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, non necessariamente però nella zona dove era prima. Hahn ha visitato lo Science Center bruciato e ha detto bisogna ricostruirlo quanto prima, è un luogo di eccellenza all'avanguardia per la cultura e per i ragazzi. Carmelo Prestisimone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Fumata nera per i negoziati sponsorizzati dall'Unione Europea tra il premier serbo e kosovaro. Nella notte non è arrivato l'accordo sperato, ma si continua a trattare. I negoziati tra il premier serbo Ivica Dačić e quello kosovaro Hašim Tači si sono conclusi ieri a Bruxelles senza alcun accordo, ma questo non è un fallimento della trattativa. Un'intesa non solo è possibile, ma in un certo senso obbligatoria, soprattutto per la Serbia. Il governo di Belgrado è sotto pressione da parte dei gruppi nazionalisti che hanno contribuito alla vittoria elettorale del partito progressista, ma allo stesso tempo deve risolvere la questione entro giugno, quando si deciderà sulla data di avvio dei negoziati di adesione tra la Serbia e l'Unione Europea. I serbi, insomma, devono decidere se continuare a difendere strenuamente l'autonomia delle loro enclave in Kosovo e l'Europa. Dopo una generazione di guerre sanguinose, questa sarà la vera svolta dei Balcani. Qualche luce di speranza invece per Cipro. Il programma presentato per il risanamento dei conti prevede un aggiustamento fiscale ben ritmato e riforme strutturali, anche se restano sfide significative. Una sostanziale promozione, insomma, quella di oggi del commissario europeo Olli Rehn, affiancato dal direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. Ritrovate tutto come sempre su radio24.it, europa@radio24.it se volete scriverci. Ancora un saluto da Anna Migliorati. L'Europa vi aspetta su Radio 24 domani alle 13.15. Vi ricordo il nuovo appuntamento Europa 24. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.